arriverà anche l'estate. Oggi è giovedì 30 maggio, insomma, quindi lascia ben sperare. Dico pianino perché qua il tempo, però è il momento di weekend, è il momento di mare, è il momento di conoscere nuove sedi espositive abbinando magari una bellissima gita, perché no, appunto, in località che portano una bellezza sia di territorio, estetica e anche un contenuto artistico. Siamo in provincia di Grosseto, a Massa Marittima. Consiglio per un weekend, e questo protagonista di cui parleremo in maniera molto estesa mi ha affascinato tantissimo per la sua capacità di cogliere, fare da tramite attraverso le epoche e dare sensazione concreta di quello che è una trasformazione e di cui è stato l'attore in maniera non solo molto precisa ed esteticamente affascinante, portando anche dei contenuti di cui parleremo con Alessandro Bagnoli, che è il curatore dell'esposizione di oggi dedicata a Giovanni Di Stefano, detto il Sassetta. Il Sassetta e il suo tempo sarà fino al 14 luglio 2024, Massa Marittima, al Museo di San Pietro all'Orto. Due parole sulla scuola senese, di cui non abbiamo ancora parlato, che ovviamente vede uno sbocciare nella splendida città toscana tra il XIV e il XVI secolo. Beh, è un'intersezione affascinante, a partire da un esempio bizantino, si sviluppa raccogliendo precocemente, addirittura rispetto alla vicina Firenze, spunti dal gotico francese, quindi tutto ciò che può essere ritrovato in maniera assolutamente incisiva da parte diversi artisti. Tra i suoi rappresentanti cito il famoso Duccio di Boninsegna. Il grande, per me lui è un grandissimo, Ambrogio Lorenzetti. Allora, di lui cercate l'affresco del Buon e Cattivo Governo. È stato uno dei primi esempi che escono dal sacro e portano a un aspetto di laicità governativa, in questo caso, no? Dove da una parte c'è un esempio di buon governo e dall'altra parte invece qualcosa che porta disordine. Ricordo che siamo nel 1400, Perché mi sono soffermato su Ambrogio Lorenzetti? Perché è stato, per quanto riguarda aspetti tecnici, un artista che ha ispirato il Sassetta. Lui stesso, formatosi a Siena, il Sassetta Stefano Di Giovanni aveva appunto recepito determinati aspetti per la prospettiva, per la conoscenza della pittura fiorentina, e poi in seguito porterà un altro grandissimo che è Gentile da Fabriano. Comunque, ora entreremo in mostra con un identikit magari più preciso, che porta il curatore dell'esposizione Alessandro Bagnoli, e quindi direi di iniziare la nostra conversazione. Partiamo per il nostro viaggio verso Massa Marittima, di cui parleremo magari all'interno della rubrica in mostra. Il protagonista, e qui facciamo un passo indietro di qualche secolo, è Stefano Di Giovanni, meglio noto come il Sassetta. Uno sguardo sull'arte senese del primo 400, e siamo con il curatore dell'esposizione, che innanzitutto saluto e do il buongiorno ad Alessandro Bagnoli. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Cominciamo con un identikit del Sassetta e perché ha avuto questa importanza, dottor Bagnoli. Il Sassetta è sicuramente il maggiore pittore della Siena tardogotica, cioè di quel momento ancora molto vivo in cui questa scuola pittorica locale toscana produce opere di grande rilievo, e Sassetta evidentemente parte con una conoscenza profonda e intelligente della grande tradizione senese trecentesca. In altre parole, i suoi ideali modelli sono Simone Martini, i fratelli Ambrogio e Pietro Lorenzetti, e più vicino a lui nel tempo un pittore importante per Siena come Taddeo Di Bartolo. Ecco, da questa cultura però riesce anche ad aprirsi in maniera molto particolare alle novità del Rinascimento fiorentino. Ecco, le sue prime opere, che si datano nei primi anni 20, sono in diretto contatto con quanto a Firenze stavano producendo soprattutto Masaccio, Masolino, ma poi anche Gentile da Fabriano, che pur non essendo fra i novatori del Rinascimento è comunque un personaggio fondamentale, perché ha un percorso formativo come quello di Sassetta. Anche Gentile, che nel 1423 fa quell'importante adorazione dei magi che oggi è agli Uffizi, è un pittore che intelligentemente recupera la tradizione trecentesca rinnovandola e guardando anche alle più pericolate novità del momento. Per esempio, un elemento fondamentale di queste novità sono la capacità di rappresentare il cielo atmosferico, quindi con le nuvole, con il celeste terzo della luce meridiana, e anche la capacità di rappresentare delle scene con la prospettiva scientifica che è messa a punto a Firenze, appunto, tra Brunelleschi, Masaccio, Donatello e altri protagonisti della scuola fiorentina del momento. Sassetta è sicuramente un pittore che sa capire le novità e dunque le ritraduce all'interno della sua cultura tradizionale in una maniera strepitosa, sublime, e poi ha una capacità narrativa straordinaria. Ecco, riesce a creare, soprattutto nelle famose scene della vita di San Francesco, che facevano parte del grande polittico dipinto per la chiesa di San Francesco a San Sepolcro, ecco, in queste scene riesce a narrare con una fantasia strepitosa che incanta, appunto. Queste geometrie, Ambrogio Lorenzetti, è G-moll che avete ascoltato poc'anzi alla chitarra, poi sarà accompagnato con un interprete d'eccezione che è Paul Desmond, che ho abbinato a Giovanni Di Stefano, detto il Sassetta, proprio per questa capacità di saper cogliere anche in musica, come il Sassetta ha fatto nell'arte, l'attenzione, lo studio di grandi maestri, e poi riportare alcuni aspetti come l'aspetto atmosferico da sottolineare, il cielo, le nuvole, quello che dà immagine che per allora magari era ritenuto secondario. Errata corrige, bocciato William Piana in storia dell'arte. Ambrogio Lorenzetti, il capolavoro che ho anche visto da vicino ed è sconvolgente, che è Il buono e il cattivo al governo. Ho detto, ricordate che siamo poi nel 1400, no, siamo nella prima metà del 300. Sembra una scrittura così classica, no? Da Embarcadero di Paul Desmond, e sentite lui che capacità che ha di andare oltre a questo, ed è per quello che ho voluto abbinarlo all'artista protagonista. Un'opera che è anche immagine per la mostra Massa Marittima, è stata protagonista di un'attenzione particolare, e volevo appunto sottolinearla nel dialogo con il curatore Alessandro Bagnoli. Ci soffermiamo su un'opera che è questa Madonna con Bambino, che tra l'altro è stata anche protagonista di un restauro che ha svelato determinate peculiarità. Ce ne può parlare? Sì, certo, di Sassetta si conosce molto, però appunto questa è la bellezza della nostra situazione del patrimonio italiano. Si possono sempre fare delle scoperte inaspettate, e in questo caso Si tratta di una tavola, purtroppo ritagliata, è rappresentata solo la Madonna col bambino a mezzo busto, diciamo così. Ecco, questa tavola era stata completamente ridipinta in età tardo-barocca, fine 600, e questa ridipintura molto brutta, direi addirittura volgare, che aveva comunque consentito la sopravvivenza a questa tavola, perché rappresentava un'immagine devozionale, ecco, questa ridipintura ha permesso la conservazione del dipinto di Salsetta, che appunto non è mai stato passato da un restauro ardito, da una pulitura magari fatta dalle mani di un sagrestano, che in altri casi può aver rovinato la pellicola pittorica, l'integrità pittorica, anzi, diciamo meglio. Ecco, questa Madonna recuperata è veramente straordinaria, perché dimostra tutta la capacità rappresentativa, la tenerezza, la delicatezza, soprattutto nei volti, negli incarnati, che conservano ancora la vernice originale, e questo dà appunto l'integrità, dall'armonia all'insieme. Ecco, a confronto con un'altra famosa Madonna con il bambino, la Madonna cosiddetta delle ciliegie, perché il bambino sta mangiando delle ciliegie, ecco, si vede l'affinità, sono due Madonne sorelle, diciamo così, ma questa nuova Madonna è più perfetta perché è più conservata. Aggiungo due particolari che mi hanno particolarmente affascinato di questo lavoro del Sassetta. Allora, vabbè, sono particolarità, c'era una certa attinenza, una perfezione, se vogliamo, è che il Sassetta disegna questa Madonna con il polso ritorto. Non so, questo è un aspetto io guardo con attenzione, poi magari non è una singolarità particolarmente importante, però mi ha colpito tantissimo questo polso disegnato come se avesse subito un trauma. Poi ha questo sguardo che, portato tra una sorta di spiritualità e una comunicazione molto forte e statica, ne dà un valore anche dal punto di vista comunicativo. Aggiungiamo la parte cromatica meravigliosa ed è il grande capolavoro che rappresenta l'esposizione che troviamo a Massa Marittima, dedicata a Stefano Di Giovanni in Sassetta, fino al 14 luglio. È il momento di entrare in mostra, lo faremo dopo la pubblicità. Intanto Jerry Mulligan, chi potrebbe essere Jerry Mulligan all'interno del Rinascimento e la scuola senese? Beh, adesso ci penso, poi arrivo. Dave Brubeck sicuramente potrei portarlo a paragone con Duccio di Boninsegna. Abbiamo detto Paul Desmond, lo stesso Sassetta, Jim Hall, Ambrogio Lorenzetti. Troveremo anche modo di accompagnare il grande baritono Jerry Mulligan alla rubrica in mostra che mette assieme grandi artisti e grandi musicisti. A tra poco, entriamo in mostra al Museo dell'Orto a Massa Marittima. A tra poco. Thank you. Allora, per Jerry Mulligan avevo... Ma no, non me la sento, perché Gentile da Fabriano, che amo tantissimo, è stato un artista non esattamente un innovatore, mentre invece Jerry Mulligan, caspita, è un musicista che ha dato una morbidezza armonica e interpretativa alla musica e alle note del sax baritono. Tranquillo Jerry, troviamo un artista anche per te adesso. Il suono del contralto è di Paul Desmond, sentite come doma lo strumento Jerry Mulligan. Tra i due vi sarà uno stop and go che tutti i tempi. Questo. Sono 49 numeri di catalogo, 26 sono dipinti di Sassetta, gli altri sono dipinti di altri artisti del contesto artistico senese, quindi collaboratori, gli amici o anche gli antagonisti di Sassetta, che pur avendo una maniera diversa non potettero fare a meno di considerare quello che Sassetta stava pubblicando nella Siena tra gli anni 20 e gli anni 50 del 400. Mi riferisco per esempio ad un altro straordinario narratore che è Giovanni Di Paolo. E poi ci sono le figure di Tiziano Di Pietro, con le opere che fanno parte della sua produzione media, ma anche con le opere che dalla storiografia novecentesca sono state estrapolate dal suo catalogo e riunite sotto il nome critico di Maestro dell'Osservanza, che oggi, grazie alle scoperte recenti, si può dire sia stato un aiuto nella bottega di Tiziano Di Pietro, che aveva il compito di fare alcune opere, e queste opere sono più eleganti, più raffinate di quelle di Tiziano Di Pietro. In altre parole, Tiziano Di Pietro è un imprenditore capacissimo e molto prolifico, che produce nella propria bottega opere di diversa natura e qualità che sono affidate a degli aiuti. Ecco, questa distinzione del gruppo critico Maestro dell'Osservanza è uno dei raggiungimenti più alti della storiografia italiana ed è dovuto a Roberto Longhi, che nel 1900 1939 staccò questo gruppo dal catalogo enorme e informe di Sano di Pietro. È un saggio molto importante, questo di Longhi, e si intitola non a caso Fatti di Masolino e di Masaccio. Dunque introduce la personalità di Sassetta e del maestro dell'osservanza nell'ambito della migliore produzione fiorentina del primo Rinascimento, appunto le opere fondamentali di Masaccio e di Masolino, dalla Madonna col Bambino e Sant'Anna che oggi sta agli Uffizi, allo strepitoso ciclo di affreschi della Chiesa del Carmine a Firenze. Anche per Jerry Mulligan è questo misterioso maestro dell'osservanza, è stato insieme a Giovanni Di Stefani Sassetta uno degli artisti per il 400 senese più importante nello studio. Adesso maestro dell'osservanza avrà anche un nome, viene riportato dalle cronache col giovane Sano Di Pietro. Abbiamo un percorso in mostra? Sì, sì, le opere di Sassetta sono esposte, diciamo, in senso cronologico, dalla prima opera, che è una Madonna col Bambino in umiltà, fino alle ultime, e poi anche le opere dei pittori vicini a lui sono rapportate alle opere di Sassetta ed esposte appunto anche loro per raggruppamenti in senso cronologico. Fra queste opere, per esempio, spiccano quelle di un pittore che solo in queste ultime ricerche si è potuto identificare anagraficamente. Si chiama Nastagio di Guasparre, è un nome che non dice niente, era conosciuto dalla storiografia fin dall'Ottocento, ma non si erano ritrovate le sue opere. Oggi, grazie ad un'opera conservata solo in parte dietro la tela di un altare del Duomo di Siena, si può riconoscere questo pittore. E bisogna dire che la mano di questo maestro, che è un collaboratore anche di Sassetta, Elisabetta era stata riconosciuta grazie all'esercizio della filologia, alla connoisseurship, come si dice nel mondo della storia dell'arte, di Miklós Boskovits, che aveva battezzato le opere stilisticamente omogenee col nome critico di maestro di Sant'Anzano. Ecco, oggi questo maestro di Sant'Anzano riacquista l'identità storica in un astagio di Guasparre. Un'altra cosa importante da dire è che Sassetta è un nome che si afferma nelle conoscenze storico-artistiche tra fine 800 e inizio 900, e l'iniziatore di questo ritrovamento è Bernard Berenson, che con la sua cultura decadente da americano culto che arriva in Italia e fa i suoi studi, leggeva la figurazione di Sassetta come un parallelo di figurazioni legate al mondo d'Oriente. Insomma, quel modo comune di riferirsi, diciamo, alle Madonne senesi come Madonne con questo aspetto orientale deriva da questa lettura di Bernard Berenson. Poi ovviamente è stata sorpassata da studi più storici come quelli di Longhi, che citavo prima, e si è capito il ruolo fondamentale di questo artista all'interno appunto della pittura senese e della pittura toscana più in generale. E questo è il concerto di Arrugnez che ci accompagnerà fino al termine del format in mostra di oggi. Non abbiamo notizie sul perché Giovanni Di Stefano verrà definito il Sassetta in seguito. Non abbiamo notizie per questo soprannome. Gimola la chitarra, Paul Desmond al contralto, farà un assolo da strappalacrime di una bellezza immensa in questo brano, il concerto di Arrugnez. Chet Baker alla tromba, Ron Carter al contrabbasso, Steve Gadd alla batteria. Abbiamo percepito con attenzione a questa lezione di storia dell'arte è che l'artista protagonista è stato precocemente attento alle problematiche spaziali naturalistiche dibattute a Firenze, le ha interpretate liricamente nell'uso cromatico, luce, colori, linea, proprio nella caratteristica tradizione della pittura senese. Mm. Massa Marittima fino al 14 luglio al Museo di San Pietro all'Orto. È la prima volta che nella rubrica In Mostra portiamo tale sede espositiva. Ci può dire due parole? La mostra Massa Marittima è una mostra che sembra curiosa, no? Perché Massa Marittima è una città importante, possiamo dire che è l'altra Siena, dalla fine del 200 è una città legatissima a Siena, ma non ci sono documenti che ricordino l'attività di Sassetta in questo centro storico. Però nel museo si conserva una cuspide con un angelo annunciante del Sassetta. Non si sa come sia arrivata nel museo di Massa Marittima, ma è stata l'occasione appunto per fare un approfondimento su quest'opera e dunque presentare accanto a quest'opera del Museo di Massa Marittima una rassegna delle opere di Sassetta e degli artisti del contesto. Una rassegna, mi preme dirlo, fatta sulla base di due principi, cioè di sostenibilità in senso generale e anche di etica della conservazione e della tutela, perché sono state chiamate a raccolta opere importanti, ma che possono, come dire, affrontare i rischi di un viaggio e un'esposizione diversa dalla loro sede di origine. Oggi purtroppo la tendenza è quella a fare tante mostre anche non necessarie, ma con la forza del denaro si possono anche raccogliere in esposizione opere delicate di grandi dimensioni che invece dovrebbero essere lasciate nei loro luoghi di conservazione. Questa mostra invece vuole essere un esempio anche di mostre che possano essere attente alle ragioni della conservazione e della tutela. A Massa Marittima, Museo di San Pietro all'Orto, fino al 14 luglio 2024, il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo sull'arte senese del primo 400. La curatela di Alessandro Bagnoli, che ringraziamo per questa piccola ma grande lezione di storia dell'arte, e appuntamento a un altro incontro con Radio Città Fujiko. Grazie e buona giornata. Conoscere un artista fondamentale e magari portarlo sotto i riflettori con una biografia, e la curatela di Alessandro Bagnoli, che ha dato questa lezione, come ho detto, per aggiungere valore alla rubrica In Mostra, portare un altro artista nella nostra rassegna a Regola d'Arte sui 103.1. E non è male accompagnare i saluti con questo assolo meraviglioso di Paul Desmond, che è un po' la nostra sigla di conclusione. Domani andremo in scena col triplo appuntamento Teatri di Vita, rassegna Agora, e avremo anche un altro segmento dedicato al teatro. Teatro Sant'Arcangelo, il festival appunto che seguiamo ogni anno. Questo si alza al sipario sui 103.1 di Radio Città Fujiko per la vigilia di weekend di domani. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con la musica di Concerto e la voce al contralto di Paul Desmond, e a breve con l'Edipo Enciclopedico Liberi Dentro. Poi ci sarà dalle 10.30 alle 12.30 il Grande Rock di Angela Zocco e Andrea Gozza, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali sarà dalle 9.30. Il Breakfast Club vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Mi raccomando, per la prima colazione in diretta, un caloroso abbraccio e un buon ascolto dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.